Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori, buonasera e buon anno. E abbiamo con noi questa sera Giacomo Brizielli. Buonasera Brizielli. Buonasera a voi. Giacomo Brizielli è l'autore di un libro che si intitola Il banchiere di Oz. Adesso ci spiegherà come mai ha questo titolo. Brizielli nasce a Genova nel 1981, ha studiato pianoforte al Conservatorio di Genova, ma poi ha scelto un'altra strada, si è laureato in economia e commercio, si è trasferito, ha lavorato un po' a Milano, si è trasferito a Londra, adesso vive a Parigi in una grande società finanziaria e ha scritto questo libro che in parte almeno è anche un po' autobiografico, questo lo dice subito fin dalle prime pagine. Ecco, il libro dice si tratta di una narrativa e quindi ogni riferimento a fatti e persone realmente accadute è puramente casuale, però diciamo che ci sono anche degli elementi che nascono dall'esperienza personale. Allora Brizielli, come mai ha voluto mettere in pagine questa sua esperienza, ovviamente con molte forme romanzate? Ma l'idea è nata perché con il peggiorare della crisi mi sembrava che il mondo della finanza avesse mostrato sempre più le proprie contraddizioni e credo che un romanzo sia il modo migliore per infilarsi un po' tra le pieghe delle cronache e raccontare aneddoti, retroscena, episodi, diciamo al limite del surreale. Ecco. Appunto, da una sala di trading di Milano si arriva a Londra nel cuore della City, però poi c'è tutto un contorno di storie, di personaggi che sono appunto in parte surreali, in parte caricaturali, che però rendono l'idea. Sì, perché a volte, anzi sempre, la realtà supera di molto la fantasia, per cui è sufficiente, esatto, ispirarsi un po' alle esperienze nel nostro quotidiano, ecco. Ecco, quindi Il banchiere di Oz, perché questo titolo? Il titolo fa chiaramente riferimento al mago di Oz. Il motivo è dovuto alle intenzioni dell'autore Frank Baum, per il quale il mago di Oz diventa una storia per ragazzi. Dentro il romanzo, infatti, c'è anche un'analisi della situazione economica dell'epoca e credo che la lezione di Baum sia attuale ancora oggi. Diciamo che fuori di metafora la strega dell'Est sono le banche di Wall Street che all'inizio del Novecento avevano scatenato una grossa crisi deflazionistica. Per questo motivo i grandi agricoltori del Midwest sono stati spazzati via e questo è rappresentato molto bene dal ciclone iniziale che porta via Dorothy. Mi sembra che oggi, mutate certe situazioni, comunque la situazione si sia ripetuta. Cioè una finanza che vuole avere un po' la capacità di costruire e distruggere nello stesso tempo il mondo, di avere poteri sovrumani, di avere appunto la possibilità di muoversi creando e distruggendo ricchezza. Esatto, ancora una volta aprendo il vaso di Pandora e scatenando una forza caotica che è difficilmente controllabile. Ecco, ma in questa prospettiva allora, scatenata la crisi, vissuto il vortice della crisi, quale può essere il domani? Quale spazio può esserci per la finanza? Quale insegnamento si può trarre dal banchiere di Oz? Io credo che il primo insegnamento sia quello di restare molto legati alla realtà, in questo caso alla realtà economica, alle iniziative quindi imprenditoriali che si svolgono sul territorio. Non a caso le banche che hanno saputo restare vicino all'imprenditore sono riuscite a sopravvivere alla crisi nei momenti più difficili. Quelle banche che invece si sono inventate soluzioni sempre più sofisticate e sempre più rilegate in un peruranio, diciamo, finanziario, beh, molte di queste oggi non sono più qui. Ecco, ma visto un po' dall'interno del sistema finanziario c'è un po' il rischio che si ripeta anche a breve termine. Mi sembra che certe finanziarie, certe banche al di là di qua dell'Atlantico stiano ricreando un po' quei prodotti strutturati, quei derivati, quegli strumenti finanziari abbastanza opachi che sono stati alla base dell'esplosione della crisi del 2008-2009. Il rischio di una ricaduta c'è. Questo è sicuro, perché senza entrare troppo nel tecnico, io credo che le regolamentazioni siano rimaste praticamente intoccate dal 2007 ad oggi e quindi l'ambiente normativo permette ancora alcune di quelle operazioni che hanno sicuramente contribuito a scatenare la crisi. Poi chiaramente possiamo sperare di aver appreso qualcosa dalla lezione che la crisi ci ha voluto dare in questi ultimi mesi, e forse possiamo affermare che con un cauto ottimismo il peggio è dietro di noi. Grazie allora del cauto ottimismo, grazie a Giacomo Brizielli, ci ha spiegato un po' la logica e la sostanza di questo libro che racchiude, come tutti i romanzi, racchiude anche molte avventure che vanno al di là del sistema finanziario, che però aiutano molto a riflettere sul carattere delle persone, sul carattere anche di realtà sociali come quella di Milano, come quella di Londra, come quella delle città, delle grandi città, degli incontri che possono essere in parte surreali, ma in parte appunto, come si dice, surreale, è anche parte della realtà. Allora abbiamo parlato del libro di Giacomo Brizielli, Il banchiere di Oz, edito dall'Indau, sono 288 pagine per 14,50 euro. E dopo aver parlato di finanza internazionale, di banche d'affari, di strategie appunto finanziarie con il banchiere di Oz di Giacomo Brizielli, adesso parliamo di aziende, e aziende a misura delle risorse umane. Il libro è di Aldo Canonici. Buonasera Aldo Canonici. Buonasera. People Caring, un'azienda a misura delle sue risorse umane, è un libro appunto scritto da Aldo Canonici. Ecco, cosa si intende per People Caring, Aldo Canonici? Ecco, è il vecchio concetto di occuparsi della gente. La considerazione è questa: ovviamente ci si occupa dando una retribuzione, ahimè il vile denaro è sempre importantissimo, però c'è tutta una serie di altri fattori che possono aiutare la motivazione e amplificare il senso di appartenenza delle persone, che una volta si chiamavano benefits e adesso hanno preso delle forme diverse. Ecco, questo libro è un po' un viaggio in una serie di aziende, soprattutto internazionali, alla ricerca appunto di come queste aziende, queste grandi imprese, perché si tratta soprattutto di grandi imprese, affrontano il problema delle risorse umane, della motivazione dei propri dipendenti per essere più efficienti. Quali sono gli esempi più significativi? Tutti sono significativi, si sono compresi in questo libro ovviamente, ma quali sono gli esempi più significativi? Dunque, qui sono 8 aziende di grosse proporzioni che sono state prese, europee, abbiamo tralasciato quelle italiane di cui più o meno si sa abbastanza, e con un qualche accenno anche agli Stati Uniti. Ecco, con particolare interesse per il modello scandinavo. A mio parere la Scandinavia è avanti in Europa in molti campi delle risorse umane, e quindi vedere che cosa fa è sempre un modello molto interessante. Ecco, qui possiamo fare anche i nomi, sono aziende del tipo di BMW, di Siemens, di Glaxo, ma le aziende appunto scandinave, che cosa si distinguono anche rispetto magari alle aziende tedesche che consideriamo tutti delle aziende modello? Ma le aziende scandinave sono particolarmente interessanti in questo campo specifico, perché qui lo scenario generale, il contesto è molto efficiente, no? Sappiamo tutti, leggiamo, guardiamo la televisione, eccetera, su questo argomento, e sappiamo che in Scandinavia molti benefits vengono dati dallo Stato, ecco, che dall'inizio, dalla nascita alla tomba, si occupa delle persone e quindi se ne occupa anche nelle aziende. Ecco, ma si occupa anche facendo fare delle cose alle persone. Per esempio, una cosa molto interessante è che queste aziende facilitano, che so, il volontariato dei propri dipendenti, ovviamente verso altre forme di presenza esterna all'azienda. Sì, sicuramente. Ecco, per esempio, il volontariato, sì, è un argomento scelto particolarmente interessante e sensibile. Se pigliamo per esempio il caso italiano per comparazione, dove l'8% delle persone in azienda hanno fatto opere di volontariato, ecco, si vede che c'è un bisogno, nonostante viviamo in un mondo competitivo e egoistico, ma c'è anche il bisogno di fare qualche cosa per il prossimo. E quindi queste aziende facilitano questo volontariato offrendo per esempio dei giorni supplementari ai giorni di vacanza che il dipendente può prendere autonomamente. Esatto, si può aiutare la persona, ecco, pigliamo il caso per esempio, non è scandinavo, ma la TNT olandese, che viaggia in tutto il mondo consegnando pacchi e altre cose del genere, e questa ha la possibilità magari di offrire il volo in aereo o in auto, in camion, eccetera, a chi voglia fare operazioni di questo tipo. Ecco, su questo fronte le aziende italiane, diceva, sono un po' arretrate, ci sono grandi aziende che forse hanno delle forme di motivazione particolare, più ricercate, più attente, ma la media delle aziende forse deve ancora fare dei passi avanti sotto questo profilo. Sì, devo dire che io ho trovato una notevole sorpresa, cioè appare una vera rivoluzione rispetto alle aziende più tradizionali che offrono sì qualche servizio di medicina, l'assicurazione, l'automobile a costo un po' minore. Rispetto a queste attualmente abbiamo invece modelli completamente diversi, tipo ecco ad esempio il volontariato. Ecco, indubbiamente, quindi c'è anche una necessità da parte delle imprese di conoscere questi sistemi, di aprire un po' i loro orizzonti e quindi di affrontare anche con questi strumenti la necessità di essere maggiormente competitivi. Ringraziamo Aldo Canonici di essere stato con noi questa sera, abbiamo parlato del suo libro People Caring, un'azienda a misura delle sue risorse umane, nuove forme di benefit adottate dalle aziende europee più avanzate, sono 185 pagine per 25 euro, l'editore Franco Angeli. Nella prima parte del programma, vi ricordo, abbiamo parlato del libro di Giacomo Brizielli, Il banchiere di Oz, edito da Lindau. Grazie, l'appuntamento con Economia in Pagina è per settimana prossima.